Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera a proposito di libri di economia parliamo di letteratura, ma questa scelta di parlare di letteratura non è tanto nostra quanto è una quasi provocazione di Enrico Cerni. Buonasera, dottor Cerni. Buonasera a voi. Enrico Cerni è un esperto di formazione, soprattutto dei manager, e ha scritto un libro, Dante per i manager, La Divina Commedia in azienda. Cioè, La Divina Commedia può essere un intervallo utile tra una riunione e l'altra, oppure è qualcosa che può insegnare ai manager e a chi vive in azienda a vivere meglio la propria azienda? Dottor Cerni. Ma il tentativo è proprio di dimostrare come da un testo classico ci sia la possibilità per chiunque, con una lettura, una rilettura, di individuare degli spunti per una miglior condotta manageriale. E quindi il lavoro che ho cercato di fare è appunto questo: partire dai tre regni magici di Dante e vedere come si possono individuare dei personaggi che ci guidano nel individuare quelle caratteristiche positive o negative che dobbiamo cercare di tenere in considerazione nel momento in cui svolgiamo un ruolo manageriale. Ecco, poi faremo qualche esempio, però partirei proprio dall'autore, non da lei ma da Dante. Da Dante, lei nelle prime pagine mette in rilievo come Dante in fondo riassuma in sé molti elementi che possono essere tipici di un manager, e soprattutto è un leader che sceglie di essere ottimista. È un leader che sceglie di essere ottimista perché pensa costantemente in positivo, nella misura in cui sceglie l'esilio, riesce ad essere assolutamente coerente con se stesso, con il proprio credo, e sceglie di essere ottimista a tal punto da scrivere un libro che rimarrà nella storia. E sceglie anche di fare il politico, cioè di entrare a gamba tesa, direi, nel suo tempo, di fare proprio politica in prima persona, prima di fare il letterato. Certo, questo lo fa nella prima parte della propria esistenza a Firenze, e poi nel momento in cui diventa priore e quindi si inimica il Papa, a quel punto è costretto a fare il politico, o meglio il consigliere, quindi l'Henry Kissinger o la Condoleezza Rice del suo tempo. Ma del resto l'epoca storica nella quale vive è un'epoca contraddistinta da un fortissimo fermento del mercato. È l'epoca nella quale si aprono le banche, nella quale i commerci cominciano a svilupparsi in un contesto globale e con delle evidenti analogie con quello che sta succedendo ai giorni nostri. Ecco, allora vediamo un attimo, proprio paragonandolo ai giorni nostri, di entrare un po' di questi tre regni, l'inferno, il purgatorio, del paradiso. Dove troviamo il maggior numero di manager? Allora, qui è interessante perché in realtà in tutti e tre i regni c'è la possibilità di avere degli spunti. È evidente che l'inferno è il regno del male, del fallimento, quello della mancanza di fiducia, ed è il regno nel quale una rilettura della commedia ci consente di comprendere quello che non è da fare, i comportamenti che non sono da tenere. Il regno del purgatorio l'ho identificato come il regno più terreno, e di conseguenza quel regno nel quale permangono le anime solo a tempo determinato, un po' con un contratto interinale la cui durata varia a seconda di più fattori, eventualmente li approfondiamo fra qualche istante. E poi il paradiso è il regno dei santi, nel quale le caratteristiche proprie della miglior managerialità vengono indicate a modello. È anche il paradiso il regno nel quale tutti sono organizzati e comprendono il proprio benessere nel ruolo che esercitano. Al contempo, soprattutto nell'ultima parte, nella quale Dante arriva alla C-suite, al vero luogo del massimo potere, Dante rimane a tal punto abbacinato, a tal punto colpito dalla complessità di questo regno che perde la parola. E d'altro canto, forse è proprio quello che succede a ciascuno di noi, lavori in azienda, che si ritrova in un vorticoso cambiamento continuo, tale per cui effettivamente sicuramente le informazioni sono ambigue, non sono chiare, è difficile fare delle previsioni, un po' come era successo a Dante nel momento in cui, guardando questi tre cerchi concentrici colorati, rimane ammutolito per l'appunto. Ecco, come magari ogni tanto si può rimanere ammutoliti quando si guarda l'ufficio del personale di un'impresa e lei mette Minosse come il principale responsabile, il recruiting manager. Minosse, che orribilmente ringhia, esamina le colpe e giudica e manda secondo che avvinghia. Quindi un Minosse che lei vede come un moderno direttore del personale. Un moderno direttore del personale, o comunque qualcuno che fa del reclutamento e della selezione. Minosse, con un solo sguardo e con un avvolgimento della coda attorno all'anima del dannato, fa finire le persone che sono destinate all'interno in questo o quel piano del regno del male, per l'appunto. Ed è un po' quello che succede nel momento in cui avviene un reclutamento dall'esterno nelle aziende. Esistono delle competenze, dei candidati, esistono delle caratteristiche che sono loro proprie, ma poi un briciolo di fortuna, di essere al posto giusto nel momento giusto, fa sì che effettivamente, soprattutto per i giovani, la propria esistenza possa avere una dimensione piuttosto che un'altra, proprio in relazione a quella persona che in quel momento svolge il compito di reclutatore. E c'è un capitolo che sembra fatto apposta per descrivere un po' la situazione in cui si è trovata l'economia in questo periodo di crisi: eccesso di risparmio e uso smodato del credito, avari e prodighi. Cioè, troviamo già all'inferno i protagonisti della finanza del 2009. Sì, esattamente. Quello che ho cercato di dimostrare era un po' questo, nel ripercorrere quello che Dante vede nel momento in cui ci sono due file che si scontrano, due file di dannati che si scontrano tra di loro e che ciascuno dei quali fa rotolare degli enormi massi, e ciascuno di questi dice: ma perché tu conservi il tuo denaro e tu per quale ragione lo sperperi? È l'estremizzazione appunto del eccesso di risparmio, del tentativo di non spendere, di accumulare costantemente ricchezze, e dall'altro lato invece il fatto di spendere troppo oltre le proprie dimensioni, quello che è successo con le caratteristiche proprie delle credit cards negli Stati Uniti. E Dante, da questo punto di vista, ci ha messo in luce come queste estremità, queste polarizzazioni, siano entrambe causa di difficoltà appunto nell'economia, piuttosto che nel suo caso nella gestione delle persone, e di conseguenza proprio la rilettura della commedia ci può dare degli spunti. Dante in questo è stato estremamente aristotelico, nel senso un cultore della medietas, della medietà dell'esistenza, e probabilmente da lui possiamo trarre qualche spunto per una gestione sobria dell'economia e delle ricchezze. Probabilmente se un novello Dante entrasse all'inferno in questo periodo lo troverebbe un po' più popolato di prima, però forse più popolato troverebbe anche il purgatorio, che lei chiama il regno degli interinali, cioè della precarietà in fondo, una precarietà di cui si parla tanto. In purgatorio la precarietà è in fondo positiva, perché prima o poi si passa al paradiso. Le anime rimangono al purgatorio in un tempo variabile, e questa variazione dipende essenzialmente da due fattori. Uno è un fattore proprio della persona, cioè da quali sono i peccati che questo ha compiuto, e l'altro, questo è l'aspetto secondo me più interessante per chi poi lavora in azienda, e l'altro aspetto è legato alla capacità che i cari di questo purgante, che stanno ancora a terra, nella capacità di questi cari di pregare per lui. E allora qual è lo spunto manageriale? È evidente che, quale che sia la posizione interinale che uno vada ad accogliere, al di là della tipologia contrattuale con la quale è assunto in un'azienda, ma è fondamentale lo sviluppo del network delle relazioni, perché è proprio il network delle relazioni che ha consentito ai purganti danteschi di accorciare il loro periodo di permanenza nel Monte Purgatorio, ed è proprio il network delle relazioni che consente lo sviluppo da un ruolo ad un altro, da una posizione ad un'altra, piuttosto che per chi è tecnicamente interinale da un contratto a tempo determinato ad un contratto a tempo indeterminato. Dobbiamo concludere il nostro viaggio e arrivare necessariamente e fortunatamente in paradiso. Lei, appunto, parlando del paradiso, elenca in fondo le qualità manageriali rapidamente: il rispetto degli impegni presi, la voglia di fare, la passione, la competenza, l'orientamento al risultato, la rettitudine, l'orientamento alla riflessione, la voglia di riuscire, l'equilibrio esistenziale. C'è tutto per fare un manager di successo. Sì, senza dubbio, ci sono nei diversi cieli del paradiso gli spiriti che hanno ciascuno una propria caratteristica e che si avvicinano a Dante in modo assolutamente diverso, a seconda appunto del cielo, lasciando la candida rosa nella quale si trovano. Ciascuno di questi ha un proprio ruolo nell'organizzazione aziendale del paradiso e ciascuno di questi è portatore di un valore, di una caratteristica, di un'esperienza positiva che poi portano al insieme complessivo nella dimensione della positività. Ecco, una positività che lei conclude il libro dicendo: commettere errori per cercare stimoli al miglioramento, frequentare personaggi, chiedere, interrogare, domandare, ringraziare di cuore, lavorare, rimboccarsi le maniche, agire, sono l'unico modo per crescere e per innovare. E in fondo conclude questo viaggio nella Divina Commedia da dove era partito: guardare con fiducia, con ottimismo al futuro nelle proprie capacità. Sì, certo, è questa la chiave di volta che Dante stesso ci consegna e sta a noi, ai nostri occhiali, ai nostri occhi, al nostro sguardo, alla nostra percezione, sta a noi stessi riuscire a coglierla anche semplicemente dalla rilettura di terzine in endecasillabi e in rima che ci lasciano ammutoliti e abbacinati per l'appunto ogni qualvolta li rileggiamo. Appunto perché questo poema, questo grande poema in fondo parla delle esperienze di ogni uomo e dell'uomo di ogni tempo, della sua ricerca di un senso della vita, di quello che fa e anche un senso di quello che si fa, si deve avere in azienda. Grazie a dottor Enrico Cerni, abbiamo parlato del libro Dante per i manager, la Divina Commedia in azienda, edita dal Sole 24 Ore, è un libro di oltre 160 pagine, costa solo 19 euro, potete leggerlo con tranquillità tra un momento e l'altro delle vostre arrabbiature aziendali. Buonasera a tutti, ringrazio Valeria Bernardi in regia, Anita Panizza in redazione, l'appuntamento è a settimana prossima.